dal soppalco, umido. È freddo. È freddo, particolarmente freddo. È fuori fa caldo. Siamo troppo prende pochi. Corpo questa puntata di 100 celle Avengers. Sigla! E bentornati col riverbero papale a questa puntata di 100 celle Avengers in diretta su Radio Forte sabato 22 aprile. Non può far tutto Betta, è che potevi pure affacciare dal soppalco. Potevo però chiuderlo pure io, riverbero, chiedo scusa. Ma perché l'hai messo all'inizio? Non c'era. Hai ragione, era così quando sono arrivato. E tutto questo per prendere tempo, perché Gabri è andata un momento a attaccare il gruppo in sala. Trova sempre un motivo per essere in ritardo, questa volta anche difendibile. Ma adesso torna e dice che non si sente. E quindi io rallento tutta la procedura che mi porta inizialmente a salutare Betta. Buonasera, piccoli nerd. E successivamente a salutare Virgi. Ciao. E senza darle il tempo di indossare la cuffia, salutiamo la giornalista Buonasera. Faziosa Gabri Grupi. Buonasera. E su lei un applauso, perché ha fatto la corsa. Ha fatto la corsa. A seguire, a concludere la kermesse dei saluti, The Beautiful Mind, Franci. Sulla fascia, Roberto Donadoni. Ciao a tutti. Ciao. Anche grande imitatore di Pizzul. Chi ricorda chi era Pizzul? Ebbene, ben trovati in questa primaverile, anche se non sembra dal clima, puntata di 100 celle Avengers, la 48 se non sbaglio. Non so se da voi si diceva anche morto con gli occhiali dopo morto che parla, il 47, no, era una tombola tutta mia. Va bene, quindi puntata 48 con un tema che, come diceva Virgine nel fuori onda, che non saprete mai, con un certo astio, sottolineavo essere uscito fuori da, diciamo, non mi vengono le parole, talmente l'astio, no, perché Biascicone è diventato Rosicone da una macro, ormai da una macro rubrica, una macro diciamo meccanismo che ingloba tutte le relazioni, si rifà trovare i temi, la rubrica quindi dei temi, la rubrica delle rubriche, se possiamo, e quindi che consiste fondamentalmente nell'andare al cinema senza di me, cioè, rubrica questa rubrica è cosa hanno visto al cinema i redattori di 100 celle Avengers questa settimana o queste due settimane senza di me, lo aggiungo io perché ha preso corpo senza di me, però io sapete che io vuoi lavorare, non è che quindi io cioè ci devo sta tante volte vi ho chiesto, imposto temi così di ghiribizzo, e mi ritorna come un boomerang un tema che abbiamo anche un po' affrontato in passato nella nostra fase embrionale post prodotta delle prime 10-15 puntate di 100 celle Avengers. Sì, e siccome mi siete andati a vedere Super Mario senza di me, ripeto, prende corpo oggi la puntata sui videogames. Evviva! Ti ho messo un po' per creare l'hype, l'ho creata? Tanto io te parlavo tantissimo sopra. Posso dire una cosa che dice sempre Gabri? Non mi sento oggi, non mi sento in cuffia, non mi sento. Tu invece Gabri, io tutti mi sento bene. Me, mi hai scambiato. Forse abbiamo scambiato microfoni e cuffie. Un po' tutti, quando tu un po' non tutti. So che i panni sporchi si lavano. Sì, sì, no, prego, Il gruppo non è propriamente arrivato, però vabbè, arriverà e penso che a breve dovrò riassentarmi. Ma no, è bello faremo questo in modo fatto che nessuno se ne accorga. Che teniamo informati un po' tutti, forse anche il gruppo stesso il che gruppo ascolta stesso, se ci sta Radio Forte, andando a suonare. Dove siete, ragazzi? Gruppo, dove siete? Dicevo, ascoltiamo Radio Forte, poi purtroppo dobbiamo suonare, non la possiamo sentire tutta. Se sei il gruppo che ha le prove in sala prove ora. Allora, se siete voi, ragazzi, il cancello potrebbe essere chiuso perché ieri c'è stata una grossa iniziativa al Forte e oggi siamo tutti molto stanchi, quindi il Forte è chiuso. La sentivo da casa mia. E non cominciamo con queste no, una cosa. Non è vero, era qualcos'altro. Avevi lasciato accesa la radio. E niente, quindi mi raccomando, fateci sapere o chiamate sul mio numero, che è appunto lo do dopo in ma che è oggi? No, il niente, bambino Luigino è atteso in ci rendiamo cassa. Utili come attualità, come perché questa è una puntata che poi non mancherà anche di, no, di trattare vagamente l'attualità, ma che adesso diciamo prende pausa con un pezzo che senza dire perché e per come lo diremo dopo, è dei Jane's Addiction, Sì, no, ce l'avevo per una volta, cioè, siccome l'ho proposto, mi sono anche premunito del titolo Bean Coat Stealing, pizzicati rubando. Grazie. James Addiction. Radio Forte, 100 Celle Avengers, questo sottofondo che tarda sempre. Beh, mi fa sempre un pensare. No, che mi fa sempre pensare di essere rotto tutto, per quello, non è. Figura, ognuno ha il suo stile di fade in e fade out. Io un po', cioè, si bisticcia fra noi fonici, lo sai. E, molto bene. Quindi abbiamo detto videogame, sempre senza di me. E. Ma parli te. No, scherzo, ma parlo io. Perché? Non fare così. Per dare quella parvenza di attualità anche quando diciamo andiamo a fare un excursus, diciamo, da. Perché noi ci attacchiamo alla musica, spero, voglio sperare sempre. Cioè, facciamo che andiamo alla deriva come al solito. E quindi, cioè, praticamente vorremmo passare da questo. Inteso come l'inizio della musica da videogame, mo faccio un esempio qualsiasi che mi rilassa, perché mo so agitato, questo sottofondo un po' meno, grazie, mi rilassa. Cioè, diciamo che questo qua è un esempio di quando dopo è diventata musica suonata orchestrata e propria. Comunque, meglio di me sicuramente potrà farlo, a proposito di attualità, in questi giorni che verranno, no, ma un po' più avanti, diciamo a giugno, il vecchio Kenobit. Non so se ricordiamo questo personaggio, diciamo, del canale Twitch, voi che siete giovani, io non capisco, Twitch non zero. Però ho conosciuto questo personaggio a una fiera del videogame, Videogame Lab, che si svolgeva a Roma, a Cinecittà, e con piacere ho appreso che lo abbiamo coinvolto poi per altre vie in un evento al Forte che si chiamerà Zona Warpa e che si svolgerà appunto a giugno a Cavallato, a Crack, quindi sì, precisamente il 15 giugno. Grazie. Ci sono diverse date in Italia, a Roma, Forte Prenestina, 15 giugno. Esatto. Posso dire anche le altre. Prego. Intanto volevo dire sì che questa zona Warpa viene presentata come la festa del videogioco ribelle e itinerante. E infatti itinerante sarà, avevo preso le date, eccole qua. Saranno il 9 giugno a Milano alla Cascina Occupata Torchiera, 10 giugno a Genova, al Buridda, al centro sociale occupato Buridda, il 15 giugno appunto a Roma al Forte Prenestino, il 18 giugno a Napoli all'ex OPG. Ho levato Diablo perché mi metteva angoscia, avevo messo la parte sbagliata, quella che rilassava era un'altra, volevo dire a tutti, io non so così. Sì. Comunque prego, itinerante prego. Appunto, quindi ci saranno anche altre date che verranno pubblicate, stay tuned appunto su questo diciamo excursus che anche noi poveramente, diciamo in maniera sicuramente meno approfondita, faremo oggi di videogame e di musica da videogame. Non so se l'hai detto, che appunto ci sarà un paio, ovviamente anche una parte musicale della serata, oltre a tutti i workshop eccetera eccetera, suonata tutta quei Game Boy, quindi pronti alla 8-bit come se piovesse, perché Kenobit, oltre ad essere appunto un conoscitore di un sacco di robe che vi racconta mentre gioca, perché io l'ho visto fare un seminario mentre finiva Bubble, faceva 60 quadri mentre parlava e ti raccontava dei vari programmatori giapponesi che avevano fatto cose, nascosto messaggi segreti occulti dentro ai quadri di Bubble mentre li finiva, quelli più difficili proprio, e oltre a questo suona col Game Boy e quindi ci sentiremo il Game Boy. Sì. Chiptune, sì, ovviamente io ho minimizzato, certo, per chip-tune, rendere comprensibile ai più di a cosa vanno incontro. Comunque, lo vendono anche da Your Music. Cosa? Il Game Boy? No, è il programma per suonare in 8-bit. Ah, ok, ah, certo, certo. No, perché poi la 8-bit cioè, ovviamente non è soltanto ripescata dai fan del videogame, ma ha fatto, diciamo, scuola in vari fronti, influenzando vari generi musicali prettamente elettronici, ma non solo. E detto ciò, a proposito di 8-bit, non c'entra niente, ci sentiamo sempre da quella playlist che suggeritami, diciamo dal mio background di videogiochi, ci sentiamo i Rage Against the Machine. Poi così non dite che non c'entrava niente, perché sennò mi tocca spiegarvi il perché, e non mancherò di farlo, però cioè così a gamba tesa, quando voi fate la vostra rubrica vi dico questa cosa, no vabbè, lo diciamo, questa è la playlist di Radio X, una delle radio di GTA San Andreas, uno dei capitoli, diciamo, di programmazione più vasti dell'universo dei videogiochi, e anche come, diciamo, playlist di varie eventuali, tra cui questo. Do what they told ya. Now you do what they told you. And now you do what they told you. And now you do what they told you. And now you do what they told you. And now you do what they told you. And now you do what they told you. And now you do what they told you. And now you do what they told you. Some of those that work forces are the same that brought crosses. Some of those that work forces are the same that brought crosses. Some of those that work forces are the same that brought crosses. Killing in the name of. You do what they told you. And now you do what they told you. And now you do what they told you. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. E sempre in diretta su Radio Forte 100 Avengers, ho voluto mettere proprio lo stacchetto ripreso liberamente. Certo, me sfumi, sta solo, me sfumi. Mannaggia, Virgi. Cioè, dillo io, Esatto, la stessa Virginia che di solito ci fa stare attenti al minutaggio dei contributi musicali. Io oggi volevo fare quello bravo, oh, sta andando oltre i 3:30, dobbiamo sfumare. Sulle canzoni che non mi piacciono lo puoi fare, su quelle che mi piacciono devono stare tutte lunghe, lunghe, lunghe. Vabbè, comunque. I minuti vanno bene. Allora, per punizione specificheremo quindi ulteriormente che appunto il pezzo che avete sentito, come praticamente tutta la selezione che oggi io agguerritamente ho proposto, vengono da le radio delle macchine che te fregavi in GTA ogni volta, e te ne freghi una a seconda di a chi la rubi, c'è una certa stazione radio che poi tu puoi cambiare cosa, lo so, la parte politicamente scorretta della mia vita consta non di andare a dare fastidio ai gatti o alle lucertole, ma giocare a GTA, perché ognuno ha il suo virtuale essere male. E poi niente, il problema è che hanno fatto la ristampa, quindi Gabri niente, non mi sopporta più, c'è un problema. Colpo basso, attenzione. E comunque no, a parte questo, niente, volevo. Volevo dire che è il momento, è il momento. Poi faremo anche una puntata convivere con un gamer, con un giocatore assiduo. Esatto, ecco. Esatto. Ma non è questo il giorno, perché adesso è il momento di ricongiungere tutto a millenni fa, giusto? Beh, no, volevo più. Fare un lancione, milioni. Cioè, capite fa. Quando è stato il momento che veramente mi è pesa la scimmia nel videogame, e noi dobbiamo scavare nel troposmato zoico, no? Mamma mia. Ma devo lasciare anche la parola a Virgi. Beh, stiamo per lanciare per caso la sigla di quando il dinosauro quando si svegliò il dinosauro era ancora lì. Ma io non so il titolo delle mie rubriche. Beh, perché i fai lunghi, c'hai ragione, maestro. E devo scrivere. Era praticamente un fai un acronimo, fai ADAP, lì. Acronimo GACU. Va bene, comunque parleremo di paleontologia e possibilmente possiamo anche mandare la sigla. Professor Grant, mia cara professoressa Sadler, benvenuti al Jurassic Park. Ma Luigi è rotto il cazzo però, eh. Ma da dove vengono? E basta. E basta, Virgi. Ma vedi, dannartene, affa. Ti butti sempre giù. Questo non era nella sigla. Allora, oggi parleremo di paleontologia, come di consueto in queste ultime puntate, e come la ricolleghiamo con i dinosauri, ma soprattutto come scusate, con i videogame, ma soprattutto come la ricollegheremo alla musica. Ebbene, parleremo della prima colonna sonora orchestrata della storia dei videogame, ovvero la colonna sonora di Jurassic Park The Lost World, il videogame per PlayStation 1. Wow. Wow. 1997. In concomitanza con l'uscita dell'omonimo film di Steven Spielberg, il sequel appunto di Jurassic Park, veniva lanciato il primo videogioco con colonna sonora interamente orchestrale. Il primato si deve allo stesso regista che, impressionato dalle demo di un giovane Michael Giacchino, se avete presente il compositore il Michael grande. Giacchino? Non avete presente? Beh, il compositore di un sacco di roba. C'è un'università che si chiama Giacchino, però. No, Giacchino. Le musiche di Lost. Ah, oh. Okay. Ok. Poi ne parleremo, infatti. Ordinò che la colonna sonora per il videogame fosse eseguita da strumenti dal vivo e non da programmi synth, come inizialmente stabilito. Non c'è da biasimarlo, il risultato infatti è sorprendente e lo possiamo sentire qui di sottofondo, abbiamo messo un po' di brani presi dalla colonna sonora del videogame. E appunto il risultato è sorprendente per come viene rielaborata la colonna sonora di John Williams. Diciamo che non ci troviamo di fronte a una caricatura, non ci troviamo di fronte nemmeno a un'emulazione, ma a un grande omaggio del compositore, appunto, delle colonne sonore dei film. E preannuncia in qualche modo le caratteristiche del Michael Giacchino cinematografico. Questo rapporto, iniziato nel segno della stima con Spielberg, ha probabilmente causato appunto il decisivo ingresso di Giacchino nel mondo del cinema. Chi ha visto in Michael Giacchino di questo periodo, nel 97, soltanto un emule del maestro, insomma, di John Williams, deve essere in corso in un abbaglio tremendo, poiché abbiamo ritrovato invece in questa colonna sonora già la modernità del compositore Giacchino. E possiamo ritrovarla in uno dei suoi massimi esempi di composizione, che per quanto mi riguarda è la colonna sonora, appunto, della serie Lost. Modernità espressa in una cosa molto particolare, ovvero utilizzò per dare più enfasi alle musiche, alle colonne sonore, alle scene che doveva rappresentare, anche pezzi di lamiere e di rottami, a ricordare e sottolineare appunto costantemente il fulcro della serie, ovvero l'incidente aereo che preannuncia poi tutti gli eventi che ci saranno nella serie. Ma passiamo alla paleontologia vera e propria, parlando stavolta non di un dinosauro, ma di un piccolo pterosauro, cugino dei dinosauri, ma nello specifico un rettile volante. Mi raccomando, chi è che pensava che gli pterosauri fossero dinosauri? Io? No, io no. Stanno tutti a guardare il telefono. No. Ma che è? Io, scusa Virgi, se ti... Ma era breve sta rubrica. No, mi dicono un nostro ascoltatore fedelissimo, ci dice, cioè Roberto, che salutiamo, che si sente disturbato, aggiustate il segnale o l'antenna. Vabbè, intanto ci tengo a dire che questa è una web radio. Iron Man, vai a aggiustare l'antenna. Vabbè, io l'ho detto, poi non lo so. Si sente molto bene, c'è anche il gruppo da attaccare in sala proprio comunque. Vabbè, allora non ci sono notizie. Interrompiamo pure Virgi. Scusa Virgi, no, cioè, adesso persino gli ascoltatori dicono che non si sentono. Capito, cioè, una lamentela continua qua. Evidenziamo le cose belle, prego Virgi. Chiamate Giorgino. Va bene, io spero che il segnale si aggiusti. Vai. Comunque dicevo, la mia domanda era semplice: chi pensava che lo pterosauro fosse un dinosauro? Io. Boh, io. Okay. Io pure. Sì. Vabbè, io pure, dai. Cioè, mi bastava sauro. Invece no. Esatto, perché pterosauro e invece no, non è un dinosauro. È un diciamo, è un cugino appunto dei dinosauri, che però è precedente, diciamo, alla divisione tra pterosauri e dinosauri. Vabbè, ci siamo capiti. Oggi ci occupiamo infatti di Anurognathus ammoni, il cui nome significa mascella senza coda. Il nome specifico, ovvero Ammoni, rende omaggio al geologo bavarese Ludwig von Ammond, dalla cui collezione aveva acquisito Döderlein il fossile nel 1922. L'Anuroniatus era un piccolo pterosauro di 9 cm, pensate quanto era piccolino, carino, con la codina tipo proprio quella dei piccioni, piccolina, con un'apertura alare però di 50 cm. Aveva dei grandissimi occhi, le ali corte, diciamo, rispetto poi alle proporzioni degli altri pterosauri, e molto larghe, e dei denti aghiformi. Probabilmente occupavano una propria particolare nicchia ecologica come cacciatori aerei di insetti. I grandi occhi dell'animale suggeriscono che cacciasse in condizioni di scarsa luminosità, quindi probabilmente era un animale notturno. Era anche ricoperto di picnofibre, ovvero delle primordiali piume, mostrando come queste ultime fossero comparse probabilmente nell'antenato comune tra dinosauri e pterosauri, e per questo non c'è assolutamente da stupirsi quando si parla appunto di dinosauri piumati. Voi lo sapete che i dinosauri avevano le piume? Questo sì, questo sì. Ok, perfetto. Questo ce l'avevi detto. Ok, sì, e poi ne parliamo anche meglio un giorno, quando c'è tempo per fare le rubriche. Bene, anche oggi abbiamo fatto un po' di chiarezza sui nostri amici piccioni. Vi lascio al brano For Survival dei Wolfpack, che se poi guardate il video vi troverete davanti un bel gruppetto di dinosauri disegnati, tra cui T-Rex e galline. Possiamo mandare il brano. I love for you. È arrivato il gruppo. È incredibile, sempre in diretta su Radio Forte Centocelle Avengers. Abbiamo anche attaccato il gruppo. Ve ne eravate accorti? No. Ne eravate accorti, è incredibile, noi siamo efficienti in questo. Nel frattempo mi dicono che il segnale audio si è aggiustato, tra l'altro, quindi tutto volge, tutto volge al meglio. Allora arrivano gli dinosauri. In realtà c'è stato un momento di paura pazzesca in cui non c'era nessuno, qui facciamo oddio adesso come facciamo. Ma tutto è andato bene, tutto è andato bene, adesso benissimo. Anche peggio, perché la parola passa alla giornalista faziosa Gabri Grubi. Grazie molto bene. E siamo arrivati al momento di una nuova puntata di Cigni di Balacà, e bando alle ciance, e mandiamo subito la sigla. Ma non lo senti che è uguale ai cigni dei Balacà? Oh, bene, ben ritrovate, ben ritrovati. Cigni di Balacà, la rubrica che parla di plagi musicali. Anche quest'oggi diciamo che la prendiamo un po' da lontano, un po' vaga così, perché avremo anche degli interventi. Sì, insomma, caro Iron Man. Ah, che tra l'altro con l'occasione saluto e salutiamo tutti. Salutato, perché non l'abbiamo ciao, salutato. Iron Man. Ciao, siamo le persone orribili. E ciao, Alexa. No. Sì. Invece sì, comunque quest'oggi a Cigni di Balacà, quindi l'arduo compito di fare un po' da cappello, si parla di videogames, di videogiochi, quindi avremo anche appunto degli interventi, degli spunti di diritto, ma come introduzione un po' generica parliamo del ruolo della musica appunto nei videogiochi, e che la musica dei videogiochi si è diffusa parecchio grazie all'evoluzione tecnologica. Dalle prime musiche, lo stavamo dicendo, dei videogiochi sono nate musiche sempre più complesse, fino alla realizzazione delle colonne sonore vere e proprie per i videogiochi, proprio come composizioni complesse come quelle dei film, eseguiti da orchestre sinfoniche. Ce lo diceva appunto Virginia, come il caso di Jurassic World. Esatto. Non ricordo l'anno che hai detto, però insomma... 97, esatto. Quella è l'epoca in cui c'è stata un po' la svolta dall'8-bit, poi al 16-bit, 32-bit. Dicevo che appunto i videogiochi, da un punto di vista un attimo anche di diritto, per come sono strutturati, sono costituiti da queste tre componenti. Le prime due, chiaramente, la grafica, sono chiaramente la grafica e l'interattività, e costituiscono il nucleo essenziale del media in questione. Tuttavia, la terza componente è proprio quella relativa al suono, è molto importante, in particolare appunto la musica, e questa, diciamo, il fatto che ci siano contributi diversi da diversi punti di vista, appunto la grafica, quella musicale, eccetera, fa sì che da un punto di vista, ripeto, del diritto, quando si parla di videogioco si parli di opera complessa, quindi opera collettiva, perché se ne parla proprio perché anche il videogioco a suo modo è un'opera protetta dalla... è un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore. Oh! Così, l'esclamazione di giubilo. Non ci crederete mai, ma è così. Altra questione che riguarda il mondo giuridico è quella dell'utilizzo delle musiche dentro ai videogiochi, e avremo modo di parlarne a breve pure col suonone che ci farà, col maestro che ci porterà all'interno. Arricchirà, grazie. Andando a braccio. Me lo so detto da solo, grazie. Sì, ci arricchirà e... autoapplauso. Sarà anche un qualcosa che in qualche modo ha a che fare anche col plagio, ma vedremo. Dicevo quindi che da un punto di vista poi invece un po' più profano, quindi a livello inconscio, la musica gioca questo ruolo fondamentale nell'immedesimazione nei confronti del gioco e del personaggio, il coinvolgimento emotivo ad esso legato e la totale immersione nel gioco stesso, quindi questo è un contributo importante, quello della musica, a questi fini. E nella musica dei videogiochi oltretutto deve essere adattabile al contesto del gioco, cioè quando un nemico viene battuto, ad esempio, la musica deve cambiare, e proprio in questi frangenti che la cosiddetta musica adattiva o interattiva aiuta gli sviluppatori. Grazie al cambio di volume, ritmo, velocità o tonalità è possibile transitare da un momento di alta tensione a un momento più soft, senza creare interruzioni evidenti che potrebbero distogliere l'attenzione dal gioco, che chiaramente insomma è la finalità principale, quella di mantenere il giocatore incollato, ecco, al videogioco. Quindi alcune delle melodie che hanno fatto la storia dei videogame, ecco, vediamo un po'. Intanto c'è da dire che dalle musiche a 8 bit degli anni 80 alle composizioni mozzafiato delle ultime creazioni, appunto la musica dei videogiochi ha fatto tanta strada. Con l'arrivo dell'era della tecnologia in 16 bit la musica infatti è completamente cambiata e gli sviluppatori sono stati in grado di produrre musica qualitativamente superiore, tanto da arrivare a scrivere degli arrangiamenti orchestrali completi. E tra i compositori più cari menzioniamo ad esempio Jason Hayes di World of Warcraft, a tutti noto, il grande, il grande, ecco, sì, grazie, esatto. Come poi non menzionare Nobuo Uematsu di Final Fantasy. Wow. Final Fantasy, no, buono, lo adoro, grazie, adoro. Petro, che mi dai soddisfazione, anche io volevo dire aiutami. Ma arriviamo, ci siamo quasi, sì, preparati, a Robert Prince di Doom, del noto, wow, fortunato videogioco Doom. E a proposito del quale abbiamo quindi una chicca che ci illustrerà. Volentieri, prego, no, me l'ho perso nella ricerca perché volevo supportarti con degli audio, ovviamente. Riuken. Rispetto al fatto di creare atmosfera più o meno felice, mi sembra che questo era quando l'avevi superato il livello, e poi c'era, sì, quello quando morivi. Beh. Sì. Sempre del vostro amico Super Mario che vi siete andati a vedere senza di me. E comunque il capostipite no, vabbè, diciamo no. Uno una via di mezzo, una specie di era medievale prima poi l'era moderna della musica da videogiochi, perché appunto, come stavamo dicendo, per dire, sì, parliamo di Doom, gioco, parlando che io di personalmente Doom, non conosco, devo dire, poi quante ammetto notti questa su cosa. Doom, ragazzi, parlando, no, di, ecco, Doom, anzitutto, vabbè, conosci, in realtà, no, scusate, off topic da Doom, volevo sapere anche poi se ci puoi far sapere quanto ha preso quello che ha registrato questo. Ma non lo so, i miliardi, perché ogni volta che lo facevano a lui venivano dati degli euro, a questo che ha registrato in studio, forse delle lire, vorrei dire, forse non credo, questo era fatto sinteticamente, lo posso dire quasi senza smentirmi, senza paura di essere smentito, guardo sempre i miei amici nerd vedere che non sia una cazzata, però mi sembra paura. generato, non registrato da uno speaker, perché fa parte sempre di quell'epoca in cui la musica dei videogiochi si faceva un po' diciamo più povera, diciamo dal monofonico al polifonico, esatto, comunque comunque che avete già digitato, forse sperimentato. Per esempio, io The Doom c'avevo 18 versioni, perché c'è sta proprio una collezione online dalla prima all'ultima più moderna, e la prima era tipo questa, veramente rigorosamente 8 bit. Ora io sto sconfinando in un territorio un po' di Franci, se vogliamo, perché, cioè, parliamo di metal. Potrebbe essere un brano di Rammstein, cioè, potrebbe. Ma invece? Invece, cioè, chi diciamo ha elaborato questa cosa, ha trovato addirittura 3 pezzi oltre a questo, che sembrano trarre ispirazioni in un'epoca in cui appunto magari non era proprio legislata questa parte della composizione artistica nei videogame, da 3 pezzi di Metallica, i soliti Metallica, che non contenti dei soldi fatti facendo causa a 50 milioni di fans, si sono anche... i loro fans hanno fatto dei siti dove si parla appunto di questi plagi. Perché? Perché questa qui, per esempio, è un po' Master of Puppets, per chi conosce Master of Puppets. Ma lievemente. Ma appena. È talmente Master of non... Puppets che questo fan numero uno, che non so come si chiama, purtroppo non lo cito completamente, fa questa cosa. Un po' modificata. Vaghissimo. Cioè, questa non è proprio la Master of Puppets vera, l'ha modificata questo tipo. Però, diciamo, un po' come quei pezzi che ascolta Franci modificati, Giorgio Ma strota, strota, per esempio, che brutta persona. No, scusa, quei pezzi che ascolta Franci che tu volevo comunque mandi in radio. Volevo condividere con Franci la nostra comune passione sia per i videogame tipo Doom. No, Doom è vero, Franci, okay, Doom, Franci sì, okay, fino a Doom 2 facendo di sì, facendo di sì, perché poi io ho accannato a Quake, esatto, guarda, io ho accannato. Doom è abbastanza antico e la passione è purtroppo anche per i Metallica nel loro essere stronzi, tutto sommato ci sono anche stati vicino nella nostra adolescenza. E quindi niente, finito questo, diciamo, questa parte più frizzante, cioè più, diciamo, del pop popolare, quindi insomma c'è il plagio del, cioè, un pop plagio, una sorta di plagio, una sorta di plagio che noi abbiamo individuato e solo noi, a quanto ho capito, insomma. Solo noi, sì. Se digiti la cosa, cioè, si compone già. E che dobbiamo digitare quindi? Perché così Metallica Doom cover. Okay, Metallica e trovi tutto esclusiva 100 celle Avengers. C'è la foto nostra in redazione, esatto, con Super Non crederai digiti, a quello che leggi. Esatto, se tu digiti Metallica Doom cover, esce 100 celle Avengers. Esce 100 celle Avengers. Questa ormai puntata, sì, ormai, e ricordiamolo, sì, anche la puntata numero 10 del post prodotto, appunto, brava, di 100 celle Avengers. Dalla quale attingiamo molto di quello che stiamo ripetendo. Tutto. Praticamente tutto, perché poi, cioè, insomma, ci volevano più vite per conoscere tutto il mondo vasto di videogame. E io infatti mi rifaccio sempre allo stesso, quella playlist di Radio X on 100 celle Avengers, Alice in Chains, Damn Bones. Wow. Celle Avengers. Oh, ma! Di nuovo in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers. È successo un dramma alle 17:45. A peggiorare, sì, la situazione, mi avevo dimenticato. Cioè, praticamente pensavo che fosse finita Cigni di Balacà, invece no, magicamente c'ha ancora qualcosa da dire. Quindi prego. Sì, sì, ma diciamo che Cigni lo possiamo considerare concluso, più che concluso, perché in realtà volevo lanciare un assist alla rubrica che ci segue, che seguirà quella di Cigni, ossia Artifici, che è arrivata alla sua, non ricordo se ottava o nona dal numero di rubrica. Comunque si inserisce nella, in quella odierna che è la nostra 48esima, già l'abbiamo detto. E Artifici, ecco, con le sue interessanti pillole d'arte oggi continua a parlarci di Caravaggio e in particolare del celebre dipinto della morte della Vergine. Ma cosa c'entra con i videogames? Ecco, volevo fare questo assist. E diciamo che apparentemente nulla. Caravaggio proprio nulla. Tuttavia, volevo ci tenevo a dire che non sono da dimenticare quegli esperimenti che poi in cui in realtà gli sviluppatori sono riusciti a creare un connubio fra arte e videogiochi. E spulciando quella, indovinate cosa mi è subito mi è comparso? Caravaggio. Ho trovato non Caravaggio. No, ho trovato un gioco su Van Gogh. Questo sì, l'ho trovato carino, dove poi sì. Che ricordiamo che la penna con cui stiamo scrivendo le nostre scalette è la penna presa al museo Van Gogh. Sì, infatti. Ecco, magari nel negozio di souvenir fra poco potremo avere proprio tipo i Game Boy, no? Col gioco di Van Gogh o di Caravaggio. O il bustino di Angelo. O il bustino di Angelo. Ma questa, vabbè, un po' fantascienza. Gioca a tagliarti un orecchio. Ma invece io ho trovato un giochino carino. Gioca a tagliarti un orecchio. Tremendo. Scusate. Arrivano questi fendenti di Franci. Questo era il momento meta, però. Questo è un po' splatter. Ecco, ma io ho trovato, ragazzi, Mario Paint. No, poiché è nato tutto dal fatto che noi ci siamo visti Super Mario Bros. Al cinema. Senza di me. Senza di te. E allora sappiate che esiste il gioco di Mario, di Super Mario Paint. Incredibile. E, fu un vero e proprio esperimento su console Super Nintendo. Si trattava di un software per l'ammiraglia della casa di Kyoto, ma non era un gioco canonico, perché aveva in realtà più in comune con il classico Microsoft Paint che conosciamo per Windows che non con la serie platform di Super Mario Bros. E non era altro poi in sé che un programma per disegnare e colorare, che metteva a disposizione dei giocatori una palette di colori, strumenti per dare sfogo, insomma, alla creatività e alla fantasia. E, sotto la superficie, però, cioè, in realtà fu uno spartiacque, perché in esso si nascondevano una grande quantità di comunque caratteristiche e possibilità di comporre anche melodie. Quindi, se si trattava da un lato di produzioni particolarmente elementari, dall'altro non bisogna dimenticare che anche nella semplicità era possibile, attraverso questo gioco, esprimere il genio e la verve artistica. E a tal proposito, quindi, il gioco fu una vera introduzione per i ragazzini dell'epoca della possibilità di realizzare arte in pixel grafica, musica digitale e animazioni che prima avevano solo visto in azione. Pensiamoci bene del funzionamento delle stesse. No, prego, prego. Oggi sarebbe stato Paint dei me contro te. Lo sappiamo sì, tutti. Sì, oggi vero? Sarebbe stato Paint dei me contro Dio. Te. Io. Esatto. Dici bene, dici Bambini bene. Bambini nativi digitali, non ascoltate Fento Cellamento. E quindi con questa immagine, diciamo, di piccoli Van Gogh crescono o appunto me contro te, Mario Paint. Vorrei sapere cosa eccetera. Ne pensa Angelo, sinceramente, di tutto questo. Me già, contro te. Glielo chiederemo. Fatto giocare. Comunque, quando ripristineremo la linea da remoto e avremo la possibilità, appunto, di farlo intervenire in diretta, gli domanderemo cosa ne pensa. Nel frattempo, dai, è inutile di ste cose. Comunque. Io vi lancio il contributo che ci ha mandato di Artifici e quindi, maestro, prego, con la sigla di Artifici. Grazie Angelo, grazie Angelo. Non conoscendo affatto la storia dell'arte. Grazie Angelo, grazie Angelo. Sempre gradevole, sempre importante. Grazie Angelo, grazie Angelo. Ma ancora vorresti narrare la storia dell'arte. Oggi parliamo di Caravaggio e di la morte della Vergine. Chi era Caravaggio? Era uno che, come De André, Pasolini e tanti altri, viaggiava in direzione ostinata e contraria, quindi viaggiava su una cattiva strada. Era nato nel 1571, è vissuto solo 39 anni e la sua vita si è spesa prevalentemente fra bettole, bordelli e luoghi malfamati. Era stato accolto dal cardinale Francesco Maria del Monte, per il quale aveva dipinto una serie delle prime opere, ma per lui, per gli amici banchieri, altri alti prelati, eccetera. Un giurista gli commissiona la morte della Vergine. E metta a considerare che nei secoli precedenti, allorquando si è dipinta la morte della Vergine, si sono seguiti sempre i canoni e i dettami tradizionali, cioè la Vergine non era morta, si era semplicemente addormentata in attesa di una assunzione, non si parla di resurrezione, perché la resurrezione presuppone la morte. Lei non era morta, si era addormentata, infatti si parla di dormitio virginis, addormentamento della Vergine. E nelle tele di tutti i secoli precedenti, quindi, viene rappresentata una donna distesa sul letto, con intorno apostoli, santi, angeli, cherubini, serafini, eccetera, in attesa che questa venisse prelevata dal figlio, non sappiamo con quale mezzi di trasporto, portata anima e corpo in cielo. A Roma si direbbe con tutte le ciabatte. Caravaggio, per realizzare quest'opera, pare che si sia avvalso del cadavere di una prostituta annegata nel Tevere. Si è portato questo cadavere nel suo laboratorio, la stessa su un tavolaccio, la vestita con una veste rossa e l'ha dipinta così, con i piedi nudi, la mano sinistra abbandonata, l'altra abbandonata verso l'esterno, l'altra abbandonata sul suo ventre, i capelli rossi scarmigliati, viso livido e ventre rigonfio. Pare che questo sia l'effetto dell'annegamento. Ovviamente i carmelitani scalzi che reggevano la parrocchia di Santa Maria della Scala in Trastevere, era lì che era destinata questa pala d'altare, l'hanno rifiutata perché l'hanno ritenuta scandalosa, irriverente, blasfema, eccetera. Mentre è stata poi ritenuta, ancora è ritenuta, l'opera più profondamente religiosa di tutto il Seicento. Perché Caravaggio, al pari di Pasolini, De André e tanti altri, è vero che dissacrava, ma per riconsacrare. Lui, come tanti altri, percorreva una cattiva strada, e il riferimento a De André è esplicito, perché c'è un suo brano poetico messo in musica che ha questo titolo, La cattiva strada. Pasolini la stessa cosa, e tanti altri, maître à penser, maestri di pensiero. Quindi Caravaggio non dipinge una dormizio, un addormentamento, ma dipinge una morte. A riprova di questo c'è sulla tela in basso a sinistra un catino in bronzo che era presente un po' in tutti gli eventi luttuosi, perché quel catino veniva riempito con una soluzione di acqua e aceto e serviva per lavare il cadavere. E questo è evidentemente stato ritenuto anche questo un elemento blasfemo, che richiamava un po' le tesi dei protestanti, perché in molte tele di Caravaggio ci sono elementi che lasciano pensare alla sua, al suo essere appunto eretico, o comunque per prendere in giro il bigottismo dell'epoca. Sullo sfondo di questa tela, in alto, c'è un drappo rosso. Viene interpretato in genere come un elemento teatrale, perché il barocco, il periodo barocco, che è quello nel quale visse Caravaggio, era caratterizzato da questa teatralità delle rappresentazioni pittoriche. Io avrei dato a quel telo un altro significato, un ulteriore significato. Cioè un telo che si alza e che rende possibile il rapporto diretto tra chi guarda e i soggetti rappresentati, cioè tra il profano e il sacro. così come era avvenuto secondo i racconti biblici a Gerusalemme, nel momento in cui alla morte di Gesù Cristo il velo del Tempio si è strappato e quindi ha reso possibile un contatto diretto tra fedeli e il Dio che abitava nel Sancta Sanctorum. Allo stesso modo Caravaggio fa alzare un sipario tra coloro che guardano e gli oggetti sacri che sono guardati. La tela fu rifiutata, abbiamo detto, e per fortuna si trovava a Roma in quel periodo Rubens, che la prese e ne suggerì l'acquisto ai duchi di Mantova, che poi a loro volta la diedero agli inglesi, e dall'Inghilterra passò in Francia, e in Francia rimase. Ecco perché è al Louvre questa grande tela. Pensate, è 3,69 m di altezza per 2,45 di larghezza. Un'opera veramente imponente. Sono poco più di 9 metri quadrati, una stanza. E l'opera quindi fu rifiutata, finì in Francia, e lì la possiamo andare ad ammirare. Il mio tempo è scaduto. La prossima volta vediamo di parlare di Veronese, un altro pittore che è stato, sì, ne abbiamo parlato prima, vittima della censura. Buone cose, alla prossima. Radio Forte 100 Celle Avengers, quando se n'è andata la prima ora di divertimento in questo sabato 22 aprile, me devo lamentare, già è il momento di lamentarsi. Yuhu! Anche detto il momento della rubrica Traumi Fonici, rappresentante del lamentare di tutti i fonici. Sigla! Sei fregato. Che cazzo state dicendo? Andiamo! Sono il vostro fonico! Siamo nella valle, bello. Ci sono un sacco di fonici qua. E quest'oggi a Traumi Fonici l'argomento si sposa proprio con i recenti fatti, quindi mai forse come oggi la rubrica Traumi Fonici può essere in tema, può rimanere in tema videogame. Perché? Perché siamo stati a Lecce, in questo bellissimo teatro Apollo al centro di Lecce, nel passato weekend, per lo svolgimento della finale E Serie A Team. Applausi, applausi. Allora, lasciavo un po' di hype, però ho sottolineato E Serie A Team. Hai fatto bene a sottolinearlo, perché io pensavo che stavi andando a vedere la Serie A, cioè non lo so. Perché certo punto... E sta per, almeno per come l'ho interpretata io, Electronic Serie A Team, come EA Sports Zen Game. Esattamente. E quindi non si trattava di una finale di calcio giocato, ma di calcio videogiocato. Coi diti. Videogiocato. E questo e questo merita un applauso. Non coi piedi, ma coi diti. Quindi l'avrei potuta sintetizzare con: sono andato a fare le finali di FIFA. Ma finali serie, finali dove il vincitore si via pure i soldi. Insomma, una... un, come dire, un organismo di, un, degli sponsor in cui cioè, praticamente c'è un, uno sdoppiamento, un Second Life che ha reso tutto questo un effetto Second Life, intendo, che ha reso tutto questo un trauma fonico, perché fondamentalmente io mi sono speso parecchio in questa cosa semplicemente per prendere l'audio della PlayStation, rimandarlo a due minchioni che giocavano alla PlayStation e anche al pubblico, e fondamentalmente ricreare questa atmosfera qui. Però questo non è FIFA, questo Oddio, è il concorrente, è il concorrente di FIFA. Vado fiero ovviamente di aver preferito Winning Eleven a FIFA per tanti anni. Sta di fatto che mo FIFA ha avuto il sopravvento, quindi Winning Eleven è un ricordo. Tra l'altro, appunto, un altro trauma è costituito un po' dall'age shaming in questo lavoro. La crew che ci comandava, diciamo, erano dei giovani anche loro, cioè non parlo dei giocatori, parlo proprio di, dei tecnici a cui noi dovevamo, il cliente, anche detto il cliente nella sua compagine tecnica, erano dei pischelli maledetti che però ci facevano fare su e giù per questo teatro per collegare tutte videostazioni, diciamo, di commento. Cioè, fondamentalmente c'erano dei commentatori finti, poi c'era il post partita finto, poi c'è stato, cioè, era tutto. Ma commentatori, cioè, cioè c'erano dei veri commentatori che commentavano sì, il gioco. Come facevo del resto io quando giocavo alla PlayStation a casa, c'era chi non giocava, soprattutto faceva la telecronaca per romper cazzo agli altri e fargli sbagliare. E cioè, questo evento è stato insomma parecchio ma quanti infortunati complicato. Sono stati alla fine? Allora, c'era pure l'allenamento, cioè questi c'erano pure una stanza dove a un certo punto si potevano allenare. Sempre immagino pure cioè, massaggiatori, tecnici, insomma tutto come se fosse. E anche appunto il post partita con i sapienti intellettuali che intervengono un po' come se ci fosse Mughini, però c'era un salottino Mughini per quelli di FIFA, cioè, ma ti giuro che facevano tutto reale, cioè lo facevano proprio come se quelle cose fossero avvenute realmente, quindi quel colpo di testa quando c'è stata l'occasione, cioè tutto uguale, ma erano dei pischelli. Oh e mio niente, io se devo pensare che poi ho giocato tanto appunto a FIFA Winning Eleven e poi mi sono sentito in colpa e mamma e papà mi dicevano vai a lavorare, poi lavorare è stato questo, cioè farmi un culo per far giocare alla PlayStation due minchioni che hanno pure vinto dei soldi veri. Potevi essere tu quello, questo Daniele. Questo mi sembra un po' la legge del contrappasso. Infatti, più che un trauma fonico, esatto. Mi pare tu. Una cosa dantesca. Comunque, ovviamente la sensazione è anche di invidia. E in tutto questo io lancio anche la musica che ne consegue, perché a proposito di videogame e musica conseguente ai videogame, scusate, quindi mi sta sturando un'orecchia. C'è stata una canzone che fondamentalmente da quando poi i videogame hanno potuto inserire colonne sonore d'autore, nel senso non generato da un synth, ma proprio comprare i diritti di gente, hanno comprato i diritti di questo gruppo che chi li sentiva o chi è di quegli anni li associava per forza a FIFA, poi gli altri no, però erano questi. Questa era proprio fama partita a FIFA, e ce la sentiamo tutta. FIFA 98. Bravo Franci, non mi ricordavo che numero era. Bravo, bravo, bravo. It wasn't easy, but nothing is. No. When I feel heavy metal, and I feel that I need a, when I lie and I'm easy all of the time, but I'm never sure. It's not my problem. It's not my problem. Stai ascoltando Radio Forte e questo è Centocelle Avengers. Avengers. Avengers. Avengers. Questa trasmissione è un patchwork di musica passata, presente e futura, tutta orbitante attorno ai progetti del Forte. Forte, forte, forte, forte, forte. Dalla scuola di musica performance live, passando per un po' di sana follia che non guasta, che non mai, guasta, non mai, guasta mai, guasta mai. Centocelle Avengers, la musica si difende. Centocelle Avengers su Radio Forte alle 18.07, finalmente è il momento dei nerd. E ragazzi, pare che il nerd sia la rubrica destinata di più a infilarsi nelle rubriche degli altri. E questa volta o il contrario. Anche. Questa volta farò un'incursione nell'hotel Hilbert, ma prima di questo direi di lanciare la sigla. Il mio pinguino di ceramica nello studio guarda sempre verso Radio Forte. Centocelle Avengers, c'è una rubrica adotta che si chiama Nerdland. Come l'ha chiamato? Nerdland! Grazie da Respect su Centocelle Avengers. Quella che cammini. Buonasera piccoli nerd. Questa volta il buon Francesco mi chiedeva collaborazione per parlare della musica 8-bit dei videogame. Per fare questo discorso c'è bisogno di una premessa un po' particolare, cioè cosa si intende per musica 8-bit? In realtà ci sono due risposte, una pop e una più tecnica. Quella pop riguarda il concetto di musica 8-bit nella cultura popolare. In questo caso solitamente si intende qualcosa che con il discorso 8-bit ha a che fare ben poco. Cioè, non si parla di una proprietà audio, ma dell'architettura del processore su cui quel tipo di musica veniva eseguita. Si parla di musica 8-bit riferendosi a quelle musichette che negli anni 80 venivano usate come sottofondo dei giochi dell'epoca, cioè banalmente. Ma non parliamo di qualcosa ristretto a un'epoca, ma più di una sorta di genere musicale che impropriamente dir si voglia. Ci puoi fare quello che vuoi, cioè, per esempio, mi vadi col contributo secondo. Capito quello che voglio dire? Era di quegli anni sto pezzo, eh? Esattamente. Però è suonata a quel modo. È esistito. Oppure, mi mandi l'altro contributo? Dai, che l'avete riconosciuta. Questa arriva dopo. Io mi arrabbio. Dai, Bohemian Rhapsody 8 bit. Che robetta che mi trovo. Stanno pure i cori. Questo tipo di musica viene anche chiamata chiptune, cioè musica suonata con i chip. E la questione 8 bit viene dal fatto che i processori dei primi device su cui veniva suonata erano ad 8 bit, il che c'entra poco con la capacità audio del dispositivo in sé, perché alcuni di essi potevano emettere soltanto alcuni suoni, altri nessuno. E poi c'era il Commodore 64 che, pace all'anima sua, aveva proprio un chip audio molto potente per l'epoca, il MOS SID, che offriva possibilità simili a quelle di un sintetizzatore analogico polifonico. E poteva riprodurre tre voci contemporaneamente. Che vuol dire tre voci? Che poteva imitare Aldo, Giovanni e pure Giacomo? No. In musica per voce si intende una nota di un accordo, cioè, perdonatemi le imprecisioni anche solo nei termini, perché nel tentativo di spiegare questa cosa un po' terra terra mi sto infilando in un ginepraio da cui uscirò malissimo avendo seduti accanto dei musicisti veri, vero? Tutti sempre giù. Fra un po' mi licenziano. In questo specifico caso intendiamo tre sequenze di note, il che banalmente per un dispositivo del genere vuol dire poter fare un accordo. In che senso? Quando si parla di musica si parla a volte di melodia e armonia. Per melodia si intende uno sviluppo orizzontale della musica, cioè una serie di note una dietro l'altra. Ad esempio... Che assist... Per armonia invece si intende lo sviluppo verticale, cioè note suonate in contemporanea per produrre un suono più complesso, pieno, bello cicciotto. Un esempio banale è l'accordo, cioè nella versione base-base, tre note suonate in contemporanea, fondamentale terza e quinta. Se risentiamo gli accordi delle note di prima, sulla scala di Do, sentite la differenza. È un'altra storia. Questa ora attendiamo le telefonate dei maestri che ci possono confermare o sconfermare tutto questo. Oh, prendetela con la maestra Serna e me l'ha spiegata così sta Vabbè, cosa. Questa è proprio la prima lezione che allora, cos'è la musica, Sofia, l'abbiamo fatta tante volte. No, sì, lei, se disse con sufficienza, io sono una veterana qui. Mamma mia. L'avevo detto che era un ginepraio. Io ho paura. Prego. No, mi piace, vai avanti. Comunque, questo era il punto di avere sotto il cofano un dispositivo che può riprodurre una sola sequenza di note rispetto al MOS SID del Commodore 64 che ne poteva fare tre. Immaginate che salto di qualità. Questo era il punto di vista pop della questione 8-bit, ma da un punto di vista più tecnico si parla di bit in musica quando parliamo del metodo di archiviazione della musica, cioè come la memorizzo su un supporto per poi riprodurla, ma soprattutto come faccio a memorizzare qualcosa di analogico come la musica su un supporto digitale. Lo so, oggi è giornata dei spiegoni, ma se non parto dal basso non so come farlo capire. Per esempio, che vuol dire analogico e digitale? Analogico è una misura che può essere espressa con uno qualsiasi dei suoi valori intermedi, che ho detto, la manopola della temperatura del forno, che va da 0 a 300, bambini non lo fate a casa, ma può prendere qualsiasi valore intermedio, cioè 30 per le meringhe, 180 per la pizza di mamma, ma anche 195 in pochetto, perché l'altro giorno me l'hai evitata tanto bene così, e il forno mio lo uso come mi pare. Digitale invece è una misura che può essere espressa con dei valori discreti, cioè definiti, senza valori intermedi. Mo vi spiego. L'orologio della Casio che ti ha regalato nonna nel 93, che non ha le lancette, ma il display a cristalli liquidi, può fare le 15:20 oppure le 15:21, ma non le 15:20 in pochetto. Questo è il digitale. Ora, come fai a memorizzare qualcosa di analogico che può prendere un sacco di valori diversi, praticamente infiniti, tra il suo inizio e la sua fine, con un supporto come un hard disk che è digitale, quindi ti permette di memorizzare solo alcuni tra questi, magari in forma numerica, magari come valori di frequenza, perché un suono a frequenza di 440 Hz, che è un numero, vero, lascialo Francesco? Dire a lui però. Maestro. Dopo c'è un campo minato, quindi... Dicevo, un suono del genere, come sta facendo sentire il maestro, è un la, al netto dello strumento che poi usi per riprodurlo, che ti fa cambiare come suona, perché entra in gioco il timbro e compagna cantando. Come fai a fare questa cosa? Devi campionare, cioè prendere alcuni campioni, alcuni di fatto tra gli infiniti possibili valori analogici all'interno del segnale, che siano però bastevoli a poter ricostruire il segnale analogico a partire da questi. E quanti ne prendiamo? Ma... Qui ci soccorre il buon Shannon, che sicuramente è conoscenza anche di Fra. Già. Come no? Già. Io e lui ai tempi del MIT. Mamma mia, certe birre insieme che levate. Fun fact, colui che inventò il termine bit, da binary digit, cioè cifra binaria 0, 1. che assieme a Nyquist pose le, era un altro con cui si andava più alle birrette, un fisico, pose le basi per il teorema intitolato proprio a quest'ultimo, che definisce la minima frequenza, detta frequenza di Nyquist, necessaria per campionare un segnale analogico senza perdere informazioni, cioè usando questa rappresentazione essere in grado di ricostruire il segnale analogico originario, cioè la musica originale, per poterlo riprodurre, perché poi ovviamente va riprodotto in forma analogica e non digitale. Utilizzando un utilizzando un convertitore che interpreta il segnale così memorizzato in maniera codificata e te lo restituisce come era all'inizio, cioè invece di una sequenza di numeri, una bella canzone. La frequenza di Nyquist è definita come un valore maggiore del doppio della frequenza del segnale originario. Sapeva la mia cosa. E questo è niente. Grande. E quindi, che cos'è la frequenza del segnale nel caso musicale? Ma c'è Pippone, beh, sto attaccato oggi. Il suono, in sostanza, è un'oscillazione, un movimento nello spazio compiuto dalle particelle d'aria, provocato dalla vibrazione di un determinato oggetto. Non si sente, ma sto a battere le mani. Esatto. Come le mie mani che battono una contro l'altra, o le corde della chitarra che trasmettono il proprio movimento alle particelle d'aria adiacenti fino ad arrivare dalla tua Fender ai tuoi timpani. Sono il signor suono. Esatto. Lo ricordate? Povero Iron Man, ci ha provato lui. La favola dell'orecchio. Prego, prego. Diciamo, questa vibrazione arriva, l'aria vibra e i tuoi timpani vibrano colpiti dall'aria e il tuo cervello elabora Bach, i Guns N' Roses, se sei particolarmente sfortunato, i Maneskin, convertendo le oscillazioni in quello che tu chiami suono. Battutone. Per certi versi, come il convertitore di cui parlavamo prima, anche se il discorso ovviamente è enormemente più complicato di così. Gli espertoni mi uccideranno. La frequenza è quante volte al secondo queste particelle oscillano. So che forse sto facendo venire i capelli verdi a diverse categorie di espertoni, ma devo farla semplice, cioè spiegare cose molto complesse. Tanto ci chiamano dopo. Scrivono su Telegram. No, proprio al telefono. Già partita la segnalazione. Ci guardano su Gizzi. Ci guardano su Gizzi soprattutto. Lo so, regala, ma lo devo spiegare agli ascoltatori che poverini quando sentono Scala non è che pensano a quella di Doma, al fatto che è più comodo l'ascensore, cioè ragazzi. Quella del soppalco. Esatto. Che stiamo a dire quindi? Che spiegare la frequenza non fa effetto. Quindi facciamola sentire. Maestro, mi mandi il contributo. Mi ero distratto. Te le riversi. E questa cosa è difficilissima da fare. Allora, quello che sentite è un suono a una frequenza di circa 220 Hz, un La. Che succede se alzo la frequenza al doppio, 4,40? Che è un suono più alto, un Fa, un'ottava sopra. E se poi la abbasso? Né uno più basso, un Sol. E che ci posso fare? Mettiamoli insieme. Visto come tornano in ordine i mattoncini? E qui torniamo ai nostri 8 bit. Memorizzando la musica con pochi bit, in sostanza con questi sistemi e quei dispositivi disponibili, il massimo che riuscivi a fare era un po' questo. A questo punto resta soltanto l'ultima domanda, e qui ho bisogno dell'assist di Fra, cioè cos'è un bit? Ti posso lasciare la parola? Cos'è un bit? Adesso lo vediamo nel dettaglio. Solo con un'adeguata sigla di transizione. Se le parole... Tu non ti fidi mai. Vai, mandiamo la sigla. No. No, adesso non faccio più l'introduzione. Che emozione. No, adesso... Numeri. Il lancio. Non ce la faccio. Allora, vabbè, diciamo che fondamentalmente Devi mandare la sigla. Andiamo a presentare gli aspetti matematici di quanto già esposto un po' da Betta. In realtà vedremo un po' come va tutto il giro del fumo della registrazione analogica digitale e poi la sua riconversione. Quindi, sigla. Nel corso della nostra esistenza andiamo alla ricerca di parole che riescano a descrivere adeguatamente le continue perturbazioni dell'ordine e del caos dell'intero tessuto del cosmo. Auspichiamo la conoscenza, la rivelazione, la catarsi. Per questo esiste la filosofia. Ma la filosofia si fonda sulla matematica e solo la matematica può farci intuire la verità dell'universo. Non avete fatto altro che scrivere tutti i numeri di 216 cifre tentando di decifrarli, di intonarli. Non è vero? Quel numero non è niente. Non siete voi prescelti. L'ho trovato io! L'ho trovato io! E io solo l'ho capito. Sarò io a vedere Dio. Ma mi sembra un po' fuori del programma e poi magari non a tutti interessa. Sì, sì, interessa. Spiego. Bene, bene, bene. Allora, care... Scusami, faccio solo una prova? Ok, che vai, cos'era? Vai. Niente, niente, vai, vai. E che frequenza era? Che frequenza è? Allora, care funzioni periodiche di periodo T, benvenute e benvenuti. Come anticipato in apertura, oggi approfondiremo gli aspetti matematici relativi alla parte tecnica della musica 8-bit. In particolare su quegli aspetti relativi alla trasformazione del segnale da analogico in digitale e viceversa. Mi sembra giusto per insomma partire anche da alcuni cenni biografici più significativi su appunto su Claude Elwood Shannon, che è stato appunto un matematico che tra l'altro è stato anche lontano parente di, indovinate un po', Thomas Edison. Questa cosa, vi do questa... Ah, quello stronzo. Maledetto. Esatto. Sì, esatto. Esatto. Si laurea all'Università del Michigan in matematica e ingegneria elettronica, comincia a lavorare per i celebri laboratori Bell e poi anche dagli anni 50 raggiunge il traguardo dell'insegnamento al MIT. Nel 48 pubblica una teoria matematica sulla comunicazione, un trattato scientifico in cui si concentra proprio sul problema di ricostruire con un certo grado di certezza le informazioni trasmesse da un mittente. Ed è proprio in questo trattato che Shannon conia la parola bit, come ci ha anticipato Betta. Bit, bit, scusate. Betta digit. Bitta. Bitta. Ok. Dopodiché nel 49 pubblica appunto assieme al fisico Nyquist il teorema del campionamento, che studia la rappresentazione di un segnale continuo, cioè analogico, mediante un insieme discreto di campioni a intervalli regolari, cioè la sua digitalizzazione e nella forma di dimostrazione. Tale teorema, come appunto già esposto da Betta, stabilisce che affinché sia possibile ricostruire il segnale analogico a partire dai suoi campioni, è necessario che la frequenza di campionamento sia almeno il doppio della frequenza più alta contenuta nello spettro del segnale di partenza. Ma che cos'è una frequenza? Oh, l'ho già spiegato io. Adesso vediamo in maniera un po' più matematica. Allora, per capire che cosa sia, dobbiamo prima capire che cosa sia una funzione periodica. Allora, una funzione si definisce periodica se per qualunque valore della x la si vada a calcolare, questa assume lo stesso valore, attenzione qui non vi perdete, se a tale valore x si aggiunge un termine costante t. Ok, non capisco. Detto periodo della funzione. Iron Man, non capisci nulla. Quindi in soldoni sarebbe tipo f di x uguale f di x più t, diciamo, per qualunque x tu lo vai a calcolare. Che ne so, prendi e ci aggiungi 3. Tipo, per sì, dire. Tipo f di x uguale x più 3, esatto. Cioè se il periodo è 3. Diciamo se che per immaginarvela un po' graficamente, se voi vi immaginate questo grafico della funzione, diciamo immaginatevi una riga orizzontale che unisca diciamo, un punto del grafico e il primo disponibile sempre sul grafico alla stessa altezza di quello di partenza. E questa linea praticamente la potresti usare sempre con la stessa lunghezza per tutto il grafico. Quindi la sposti Francesca, lungo il grafico. Ma veramente stai facendo? Calma. E siamo solo all'inizio. Mattoni. Esatto. A partire dal periodo T è possibile definire la frequenza, ovvero sia quante volte si ripete il periodo nell'unità di tempo. Però ho capito. Esatto. Okay. Quindi la frequenza è definita come 1 su T. Perché è definita come 1 su T? Perché è inversamente proporzionale al periodo. Cioè, più c'hai un periodo lungo, cioè nel senso più le cose si ripetono con un intervallo di tempo grande, più la frequenza con cui si ripetono questi gli eventi chiaramente è minore, perché l'intervallo di tempo è lungo. Se tu hai invece che le cose si ripetono in un intervallo piccolo di tempo, hai una frequenza maggiore di ripetizione. L'inversa proporzionalità. Inversa, esatto. Vi faccio l'applauso. Grande Danielone. Hai risposto? Mettete un 8 a quell'uomo. Ma alla fine della stagione della trasmissione, poi ci metti i voti. Cioè, io so che sono bocciata, ma poi ci metti i voti. Oppure? Mi sto segnando tutto. Vabbè, abbiamo il primo della classe qua. Nella mia agendina personale, tipo quella di Winchester. Ma poi lo sapete a quanto stiamo di frequenza di campionamento in questo momento? La mia voce, la tua voce, la nostra voce. Non copiate. 44 e 100. Non lo so. Mannaggia, la sapeva. Va bene, come bravo Franci, puoi andare avanti. Grazie, mi inorgoglisci molto. Adesso ci arriviamo, adesso sono commosso. Non abbiate fretta. Allora, bene, perché stiamo parlando di funzioni periodiche? Perché il segnale analogico altri non è che una funzione. Ecco qua, quindi quando si parlava di segnale continuo, le cose continue sono in matematica le funzioni, sono le funzioni sui numeri reali. Sono funzioni. Dai, su, lasciati andare. Allora, supponendo quindi la funzione del segnale periodico, il teorema del campionamento, come detto prima, ci garantisce che effettuando la conversione con una frequenza di campionamento maggiore del doppio della frequenza massima del segnale, in unità di secondo abbiamo tutti i dati necessari per evitare qualsiasi perdita nella ricostruzione successiva del segnale, cioè nella riconversione da digitale ad analogico. Quello che succede nella pratica, quindi, è la registrazione di un certo numero di valori. Ha fatto. Non c'è bisogno che sottolineate, abbiamo già del segnale analogico in esame. La sequenza di tali valori, detti campioni, costituisce il segnale digitale. Il dispositivo che realizza la conversione da segnale analogico a segnale digitale viene detto convertitore analogico digitale. Ok. Anche analogico. Ma come vengono catturati? Digitale. Non sapevo se premerlo. Abbiamo aggiunto una cosa alla database. Magari è solo oggi, invece i numeri ti accompagneranno sempre. Insomma. Ma come lo dici bene, numeri? Numeri. Complimenti. Numeri. È bravissimo questo ragazzo. Vabbè, come vengono catturati questi valori istantanei? Come? Allora, lo strumento matematico che consente di effettuare ciò si chiama sviluppo in serie di Fourier. Lo so, dovevo dire, raga. Adesso, vai. Non scappate. La trasformata. No, quella è un'altra cosa. Mo ci arriviamo. Per me c'è solo la trasformata. Io sono allora fa parte del programma. Scusate. Allora, tale sviluppo consente di scrivere una funzione periodica come una sommatoria più o meno sviluppata. Per questo si chiama sviluppo delle funzioni periodiche per eccellenza, cioè seno e coseno. Diciamo, più questo sviluppo viene fatto, cioè più termini calcolo di questa sommatoria, più lo sviluppo in serie di Fourier approssimerà meglio il segnale in maniera dettagliata. Tanto per darvi un'immagine grafica, immaginatevi una cordicella che comincia ad avvolgere sempre di più sul grafico del segnale, quindi individuando sempre di più i punti di intersezione con la curva. Ok, quindi più diciamo termini della somma trovo, sviluppo, e più ci avrò un'approssimazione dettagliata della curva di partenza del segnale. Ok. L'equazione che consente di ricavare i valori istantanei, cioè i campioni a partire dal segnale, è detta equazione di analisi. Essa ha il compito di ricavare i campioni del suono in funzione della frequenza. Viceversa, quando si deve tornare alla sintesi del segnale, cioè passare nuovamente dal digitale all'analogico, si utilizzano le equazioni di sintesi che consentono di sintetizzare il segnale dato a partire proprio dai valori istantanei. Quindi, insomma, è un po'. Che in matematichese, tra l'altro, si chiamano coefficienti di Fourier. Vabbè, questa è una cosa che lancio. Ciò implica che la conoscenza dell'andamento del segnale in ambito temporale è di fatto equivalente alla conoscenza della successione dei coefficienti di Fourier, i nostri campioni, in ambito frequenziale, nel senso che il passaggio da un dominio all'altro è immediato e avviene attraverso le formule di analisi e sintesi. Almost. Esatto. E se la funzione del segnale non fosse periodica, e qui arriviamo alla trasformata di Fourier, tanto cara a te. Trasformata. Esatto. Trasformata. Non si mangia la trasformata. Trasformata. I brocardi sì, però. Se la metti al forno, oppure la sfumata. Allora, tutti i passaggi sopra elencati è possibile seguirli anche nel caso in cui il segnale non sia una funzione periodica. Come si fa? In questo caso, anziché lo sviluppo in serie di Fourier, si utilizza un altro strumento matematico, che è un operatore funzionale, che non vi sto a spiegare che cos'è, perché è una roba un po' complicata e che non mi ricordo manco tanto. Che fino a mo' invece era tutto chiaro. No, guarda, che se avessimo tutto un foglio e una penna, so che tutto potrebbe assumere anche una conversazione. Mi piace quando ci fai gli sconti, comunque. Vabbè, questo non lo spiego perché è complicato. Sapete che ci stava bene. Ci sopravvaluti. Ci stava bene. Esatto. Pure uno shoryuken. Ma abbiamo, esatto, lo shoryuken. Appunto, che cos'è questa trasformata di Fourier? Diciamo, mantenendosi sempre in un contesto molto discorsivo, diciamo, è sotto opportuna ipotesi, la trasformata di Fourier consente di periodicizzare una funzione e quindi di arrivare ai medesimi risultati esposti in precedenza, cioè ottenere dapprima i valori istantanei in funzione della frequenza di campionamento e poi nel passaggio successivo di riconvertire tali coefficienti per sintetizzare nuovamente il segnale di partenza e quindi tornare all'analogico. In estrema sintesi, se volessimo riassumere l'intero processo analogico digitale. Tutte e due, mi raccomando, andate e ritorno. Esatto. Oh, you can... Vai. Vede. Io poi finisco quando faccio, finisci di parlare, mi rendo conto che non ho capito nemmeno una parola. No. Ma io ci provo così tanto, mi sta sudando il cervello. Ma come? Lo so, è tosta. Ma tutto registrato. Voi... poi me la risento, infatti. E allora, pigli appunti. Risata. Adesso, adesso c'è una metafora, quindi questo potrebbe spiegare. Vai con la metafora, esatto. Pronti? Quindi, se volessimo riassumere l'intero processo, vedendolo come un'allegoria musicale, possiamo immaginarlo così. Un direttore d'orchestra ascolta una musica e scrive lo spartito. Digitalizzazione attraverso Fourier e calcolo dei valori istantanei di campionamento a partire dal segnale. Dopodiché passa lo spartito a un altro direttore d'orchestra, il processore del riproduttore, che si occupa di far riprodurre la musica dirigendo l'orchestra, cioè il dispositivo di riproduzione che effettua la sintesi attraverso le formule di sintesi ricostruendo il segnale. Ovviamente nel caso specifico, e qui torno diciamo all'argomento della chiptune, nel caso diciamo specifico della musica prodotta dalla chiptune, siamo in assenza della prima parte, cioè ovviamente quella musica parte già digitale, non c'è la registrazione in analogico, però insomma, quindi diciamo che la cosa poi è la stessa. Ci fidiamo. Ci fidiamo. E poi è una cosa pazzesca, perché all'inizio non avevano proprio gli strumenti per farla questa musica, e quindi ce la programmavano, ragazzi, la programmavano. Esatto, è questa la... È terribile. Nasceva già digitale, praticamente, digitale. E cosa c'entrano i bit in tutto questo? Il bit è un'informazione elementare, è un numero in fase 2. Beh, sono due. Numero. Nel frattempo assumere... io stavo pensando a bit holes, quindi non ti preoccupare. Può assumere arbitrariamente 0 oppure 1, quindi 0-1. Se un bit ha due valori, due bit in sequenza hanno quattro valori, tre bit otto valori e così via. Zero. 01010101. What does it mean? It's just gibberish. 10100110100. Cioè, calcola che la volevo scaricare questa cosa. Esatto, questo vabbè, l'hai era anticipata. Era anticipato. Vabbè, fai vabbè, decenni, vabbè, vabbè, vabbè. Tu voglio... No, vabbè, vabbè. Era un boicottaggio. Questa masegna, vabbè. No, vabbè, questo era Bender, non so chi l'aveva riconosciuto alla puntata La Paura, una puntata di Futurama. Di Futurama, quando lui legge sullo specchio 00110. E dice: cosa vuol dire? Assolutamente nulla. E poi lei, ma è sullo specchio. E quindi legge 110, e si spaventa e scappa. È una cosa che facciamo. Mi sono reso conto che non conosco la voce di Bender, esatto, originale. Allora, adesso arriviamo al discorso dei 44 e 100, cioè avendo il segnale musicale una frequenza limitata da 20 a 20.000 Hz, per il teorema del campionamento necessita una frequenza di campionamento pari a 40.000 Hz, perché deve essere il doppio. Per il formato maggiore musicale digitale viene dunque scelta di solito una frequenza di 44 e 100 Hz. Questo è il motivo. Dato quindi un segnale musicale, sei arrivato diretto comunque, l'importante quanto... è quello. Esatto. Dato quindi un segnale musicale, per quanto complesso, limitato in una banda fino a 20.000 Hz, i bit rappresentano non solo la frequenza di campionamento, ma anche il livello, cioè il valore di quante volte al secondo viene misurato e preso un campione del segnale analogico. Ad esempio, con 16 bit possiamo rappresentare 2 elevato a 16 valori differenti, cioè 65.536. E come valori si chiama questo? Che Gino? Gino. Qua. Non lo so. Quantizzazione. Sono i bit di quantizzazione. Ho imparato una cosa. Hai aggiunto un bit. E il maestro ci stupisce. No, scusate, perché io, cioè, state riuscendo a fare quello che io e Iron Man abbiamo cercato di fare agli inizi di 100 Cell Avengers, insegnare l'audio in... soprattutto non avrei mai pensato l'audio digitale, analogico, digitale. Ma prego, continua pure. Sono bravi sti ragazzetti. Iron Man, stai calmo. Ho imparato qualcosa. È quella cosa tra te e Alexa, okay. Lui e Alexa, è tutta una questione così. Quindi diciamo, no, questo l'ho già detto, quindi ecco quindi il significato dell'informazione di un formato digitale di file sonoro, insomma, insomma quando noi leggiamo 44 HS / 16 bit vuol dire questo, cioè vuol dire che è stato registrato con frequenza a 44 e 100, e poi rende a 16 bit. Ultimissima pillola matematica, e qui penso che avrò proprio i bombardoni. I bit sono espressi in base 2. Cos'è un numero in base 2? Allora, è semplicemente un sistema numerico posizionale che utilizza solo due simboli, di solito indicati appunto con 0 o 1, invece delle 10 cifre utilizzate dal sistema numerico decimale. un numero binario e dunque una sequenza di cifre binarie dette bit. Ogni cifra in posizione n, contate da destra verso sinistra iniziando da 0, si considera moltiplicata per 2 alla n anziché per 10 alla n, come avviene nella numerazione decimale. Insomma, se vi volete divertire, sono sicuro che lo vogliate fare, assolutamente sicuro, andatevi a vedere le varie regole aritmetica dei numeri in base 2, quindi somma, sottrazione, moltiplicazione, divisione, vedete che sono simili ma con qualche differenza. Corro! Non mancheremo, maestro. Come si riporta un numero da base 2 a base 10? Semplicemente moltiplicando gli elementi che lo compongono per le rispettive potenze di 2. Non ci credete? Volete un esempio? Ad esempio, se io dicessi 0, 1, 0, che numero sto dicendo? Ho detto numero con 2m. Allora sarebbe 2 alla 0 per 0 più 2 alla 1 più 2 alla 2 per 0. È 2? È 2, esattamente. Esattamente. È facile, si fa come le potenze di 10, la stessa cosa. Come cioè, incredibilmente è la stessa cosa che succede con il sistema decimale, che è quello numerico che usiamo normalmente, 1, 2, 3, esatto, solo che ha 10 valori invece di 2. Io sapevo perfettamente questa roba fino, pensa, agli 8 anni, poi ho rimosso tutto. Ma mi ricordo proprio che era un drago. Shannon e Nyquist, a 8 anni già ste cose. No, questa roba, dai. No, vabbè, umiliatemi quella, proprio. Che quelle robette tipo 0100. Che puntata, capito? Che ti è uscita fuori. Serio, no, serio, siamo usciti veramente. No, comunque, io avrei questi finito. Sono alti livelli, ragazzi. Non ho più niente da... Ah, no, non hai neanche la musica. No, ce l'ho, ce l'ho. In realtà volevo prendere qualcosa in tema, ma poi mi sono ricordato un pezzo che volevo proporre al saggio quest'anno, ma che era estremamente complicato e quindi ho accannato. Ho preso un Red Hot Chili Peppers vecchia scuola. Quindi la rubrica degli scartati. Esatto, oh, è più o meno, facciamo. Yeah. Esatto. Così, la sigla degli scartati. Questa. Il pezzo compare in una raccolta dei Red Hot Chili Peppers. C'era un po' la scia lunga, la sigla. È finita, prego. La Red Hot Chili Peppers? No, vabbè, era solo così, un po' di storia. Compare su una raccolta che si chiama What It's, ed è, diciamo, l'inedito di quella raccolta. Si chiama Show Me Your Soul, Red Hot Chili Peppers. Pezzone! We'll be right back. just like you, a human being. You won't offend, I need to know. Please, my friend, show me your soul. Sentimental gentlemen are not afraid to show you when I am you, you're my best friend. Show me your soul. Radio Forte 100 Celle Avengers, mentre si riabbassano i volumi nella regia animata dal colore, perché quando parte lo stacchetto di Gabri Brasao ci mettiamo tutti a ballare, alziamo la cassa e ci scordiamo di riabbassarla. E mentre, niente, approfitto per ricordare, dopo il grosso spiegone dei nostri più illuminati tecnici Betta e Franci, che il Commodore 64 mi ricordavano essere addirittura una specie di strumento. Questo solo per aggiungere una postilla, non per sempre come prima cazziare Franci con la quantizzazione, no, era proprio per riprendere sempre Ken Hobbit, che è grande maestro di un sacco di cose, che raccontava che poi è diventato di culto il Commodore 64 per suonare, perché effettivamente, essendo un generatore analogico, aveva, infatti pesava, se ve lo ricordate, e aveva proprio un suo colore ognuno dei Commodore 64 che ti potevano capitare, cioè erano poi tra l'altro varie edizioni, quello bianco, quello marrone, quello e suonavano, per gli strippati della sintesi, diversi fra di loro. Quindi c'era proprio, e c'è tuttora ovviamente, chi ce l'ha, che se li vende ci fa i soldi, ma li hanno anche risintetizzati in dei cubetti che ti producono praticamente con lo stesso chip la stessa roba. E niente, vabbè, questo per arricchire sempre la parte dotta del sempre zona Warpa ne parlerà meglio di me, al forte a quanti giugno. Ne vuoi di questi applausi? No, io non cercavo l'applausi, era per ricollegare due neuroni che mi avete fatto voi risvegliare durante lo spiegone. E invece questo è il momento della cultura letteraria. Aspetta, volevo solo un attimo salutare il nostro ascoltatore numero 2, anzi il numero 1 da Cosenza, il nostro Robertino. A cui facciamo un applauso. Salutiamo Robertino. Ciao Robby, che sempre ci segue con attenzione. Ha detto che ci invierà anche una recensione su questa puntata, che gli è piaciuta particolarmente. E a proposito di colonne sonore dei videogiochi di cui parlavamo prima, ci ricorda che la colonna sonora di FIFA 99 invece erano i Fatboy Slim con un brano che in realtà adesso non ho più sotto mano, ecco, ho chiuso la pagina. Grande. Ah, Rockfella Skank, che non abbiamo purtroppo sotto mano, però insomma Così io li volevi, altrimenti lo potrei fare ma in maniera siamo molto a Tagatà. No, vabbè, andatevela a scaricare, che ti trova la cosa. Già. Telefono sul microfono. L'abbiamo in analogico. Si è capito benissimo comunque. Ecco, questa è una digitalizzazione, sta avvenendo questa. È una quantizzazione. Esatto. È come fare le prove. Quella. Comunque mi ricordo quando si impallava FIFA, era un casino e c'era sta musica che, che non si... The Pop Now, tre ore tipo. E anche con Song 2 avveniva la stessa cosa. Esatto. Le mamme, i papà quanto erano contenti. E, eravamo appunto, beh, dicevo, cioè, salutiamo Robertino, sì, sì, sì, ringraziamo per la precisazione. E, e ci troviamo al momento letterario, dicevamo. La maestra Viola non c'è. Salutiamola! Non c'è. Ciao Viola! No, bambini! Ciao Violetta! Non c'è, quindi però siete contenti perché ha lasciato un contributo, lo sapete, no? Esatto, e nel frattempo noi a suo tempo ci eravamo dedicati anche a, diciamo, al gaming a livello musicale, e quindi abbiamo come sottofondo, siccome Viola non ce l'ha indicato, noi ci prendiamo la libertà di mettere, dopo ovviamente l'opportuna sigla, anche il nostro contributo, sempre videogamer. Comunque la rubrica di cui si parlava è Music & Poetry, sigla! Lasciatemi leggere, leggere, ho voglia di sentire questa poesia. Ciao ragazzi, ciao a tutti. E oggi purtroppo non sono presente con voi, ma comunque ci tenevo tanto questa volta ad esserci, almeno in un modo indiretto. E il tema della vostra puntata di oggi tratta appunto dei videogames. E io, siccome sono una para bip, e, diciamo, ho trovato un escamotage per collegarmi almeno a livello letterale e, con voi, e quindi diciamo porto come, come mio contributo, ecco, e, Lana Del Rey, parlerò di Lana Del Rey. E infatti alla fine della rubrica ci sarà il testo della canzone Video Games. E Video Games è un brano musicale della cantante, estratto come primo singolo dal suo secondo album Born to Die, di cui ho anticipato l'uscita. Il singolo rappresenta il debutto della cantante ed è stato pubblicato il 10 ottobre del 2011. Il titolo, appunto, Video Games, è un brano che si può definire baroque pop, in cui parla di, appunto, la cantante parla di come il suo ex fidanzato la usasse al pari dei videogiochi. E il videoclip del singolo è stato girato in maniera amatoriale dalla stessa Lana, con la sua webcam. E questa canzone, diciamo, è una canzone malinconica, intrisa di una tristezza leggera appena sussurrata, e racconta appunto di una storia d'amore in una coppia ricca e giovane che può permettersi di non lavorare ma andare in giro a fare quello che gli pare. Il senso del tempo che passa lentamente facendo sempre le stesse cose è espresso perfettamente dalla lentezza della canzone, e la voce narrante racconta per piccoli tocchi, per immagini che si accumulano a poco, lei è persa per questo ragazzo che però non fa niente di speciale, si apre una birra, gioca ai videogiochi e fa l'amore con lei. In questo senso il momento più esplicito è quando lui la guarda svestirsi e le dice "Take your body downtown", che è un modo poetico per dire go down on me, ed è un invito appunto al sesso orale. Le femministe americane hanno criticato la canzone perché propone un'immagine femminile troppo arrendevole e soggiogata dal maschio, che se la rigira, diciamo, come vuole. Lei lo stuzzica, si fa portare in giro e va con lui a giocare a biliardo, a cantare al karaoke, e si isola con lui, dato che con gli amici ci litigano. È una stasi perfetta, ma intrisa di malinconia, di qualcosa che non può durare per sempre, e lei lo sa. l'impressione di fondo che resta è che lei cerchi di convincerlo che vale la pena di amare. Gli dice che ora lui dovrebbe accorgersi che il mondo è fatto per essere vissuto in coppia. Resta la sensazione che nonostante il profumo che lei si mette, il sesso, il tempo passato insieme, lui non si accorga più di tanto dei sentimenti di lei, che restano corrisposti solo in parte, in una relazione che non prenderà mai il volo per davvero. Per quanto riguarda invece il collegamento con, diciamo, con la poesia, e qualche tempo fa acquistai, mi colpì appunto questo un libro, ero in una libreria e mi colpì questo libro appunto scritto da Lana Del Rey, che poi è il secondo libro, ma mentre il primo, diciamo, è un romanzo, questo è proprio una raccolta di poesie, di immagini, di foto scattate appunto da lei a Los Angeles, e è intitolato Violet, quindi forse per questo mi ha colpito particolarmente, ma anche per la copertina che è molto molto carina, e quindi si intitola Violet e altre poesie. Diciamo che lei afferma: la poesia che dà il titolo a questa raccolta è la prima delle tante che ho scritto. Alcune mi sono venute di getto, le ho dettate e poi trascritte a macchina, mentre per altre la composizione è stata più laboriosa e ogni singola parola è stata scelta con cura per creare la poesia perfetta. Sono eclettiche, sincere, non cercano di essere niente di diverso da ciò che sono. Per questa ragione ne sono orgogliosa, soprattutto perché lo spirito con il quale sono state scritte è davvero autentico. E allora, diciamo, vi leggerò la poesia, quindi, che dà il nome al, diciamo, il titolo al, a questo libro, è intitolata Violet piegata all'indietro sull'erba. Ero carica, arrivata alla festa, ogni decisione già presa, la mia mente si era detta come fare per essere felice e cosa invece no, ogni opzione pesata con calma, un piano per ciascun pensiero, ma poi, passando da una porta oltre la grande stanza, vidi Violet, piegata all'indietro sull'erba, 7 anni e dei denti di leone strette nelle mani. Inarcata come un ponte in una verticale crollata, il sorriso selvaggio e folle e l'euforia che solo non far nulla ti dà, aspettando i fuochi nel cielo. E in quel preciso istante ho deciso di non fare più nulla, per niente, per sempre. E questa, cari amici, era appunto la poesia Violet. E diciamo, ce ne sono di altre molto, molto carine. E vabbè, non è una pubblicità appunto per acquistare il libro, però come diciamo, forse come sapete voi in redazione, io, cioè, sono una fan praticamente di Lana Del Rey, quindi mi piace tantissimo sia diciamo artisticamente sia a livello di cantante, quindi questa scoperta che lei appunto che lei scrive sia romanzi sia appunto poesie mi ha colpito ancora di più. E va bene, amici cari, questo è il mio contributo di oggi e niente, vi mando un grande bacio e a presto, un bacione dalla maestra Viola. Backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say get over here and play a video game. I'm in his favorite sundress, watching me get undressed, take that body downtown. I say you the bestest, leaning for a big kiss, put his favorite perfume on. Play a video game. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, tell you all the time. Heaven is a place on swinging with the old stars, living for the fame. Kissing in the blue dark, playing, pulling wild dots, video game. Is he alright? He's alright. He holds me in his big arms, drunk, and I am seeing stars. This is all I think of. Watching all our friends fall in and out of old clothes. This is my idea of fun, playing video games. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you want to do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I ever even knew. They say that the world was built for two. Only with living if somebody is loving you. Baby, now you do. It's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you want to do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I. Di nuovo in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers, giusto per farci i saluti, poiché e per chiedere scusa una, a, per il suo traiola disclaimer su. Allora, non è colpa mia se si partecipa al tema con una canzone, cioè perché la maestra Viola ha partecipato a distanza, ci ha detto ragazzi mi scaricate questo pezzo, si chiama Video Game di Lana Del Rey, e noi ci abbiamo messo Puzzle Bubble sotto. Allora, mi è piaciuto. Poi Viola, se videogame in realtà era una metafora per parlare dei soliti problemi, cioè non lo so, comunque di altre cose, ce ne siamo avveduti durante, ecco, era... questo successo. Però nel frattempo era bellissimo questo, diciamo, però spezzava, secondo spezzava, me sì. Cioè era un po' così, no? È stata una rubrica molto emotiva. Stemperava c'era questa un po' allegria che spezzava la malinconia. Un po' bipolare, sì, sì. Bipolare. Leggermente psycho, sì. Ossimoro, come... Era sì, perfetto. Esatto. Era perfetto. Anche un po' psycho. Ringraziamo vero, comunque vero. La maestra Viola. Grazie, che Viola. Non manca Viola. di mantare i contributi anche torna, quando torna non c'è. Torna presto, così non ti facciamo questi soprusi. E niente, si conclude questa puntatona sui Video Games, riedizione, ristampa. Da oggi possiamo ricordare, quindi puntata 10, puntata 48, sono il nostro luppone videogame. Non abbiamo mai avuto così tanto tempo per fare i saluti, incredibilmente. Mai, sì. Mai. Virginia ha scelto così, mi ha segato. Se volete riascoltare, sempre solo io. No. Sì, le decisioni vere di redazione prese all'ultimo sono sempre più o meno colpa tua. Quindi... Diciamo pure che c'è un podcast quindi... di questa roba. Ti tempesto di campioni qualsiasi, soprattutto questo. Fury, l'operaio di Age of Empires, che avevamo cercato di intervistare. Ma lui sta litigando con me, capito? L'avevamo intervistato, ma aveva avuto poco da dire. Comunque, questa puntata la trovate in podcast, abbassa la sigla. E vi voglio bene perché okay, c'è un tecnico che si occupa della sigla. E la trovate in podcast sul sito fortepredestino.net. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Buona serata. Ciao.